Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Radiobook. Oggi parliamo con Mara Pruneri, una cantante valtellinese agli inizi che ha appena lanciato il suo video Matrioska. Mara è giovanissima, piena di voglia di fare e di amore per la musica. Potevamo farci sfuggire l'occasione di conoscerla meglio? Ciao Mara e grazie di essere qui. Ti va di raccontarci perché hai iniziato a cantare e quali tappe hanno segnato la tua carriera nascente? Sì, ho cominciato a cantare da piccolissima. Davanti allo specchio in cameretta avevo la cassetta del Festival Bar, la rossa, la blu, e mi ricordo le cantavo all'infinito. È stata una passione innata, anche perché nella mia famiglia non c'è qualcuno che ha questa passione così forte. Però devo dire, non è mai mancata la musica, lo stereo era sempre acceso, mia mamma addirittura a pochi mesi, per non farmi piangere, mi metteva le cuffiette e io ascoltavo, per cui tutto ha inciso. E, a 10 anni ho cominciato a suonare il pianoforte, però mi ricordo non ero molto entusiasta, infatti mi interessava solo cantare, per cui ho abbandonato il pianoforte, ahimè. Ho iniziato a prendere delle lezioni di canto, ho trovato una bravissima insegnante che mi ha dato tanti stimoli e intorno ai 14-15 anni ho cominciato ad esibirmi nei locali valtellinesi, per cui avevo la mia band e facevo cover pop rock, quindi è stato molto divertente e anche il periodo in cui ho cominciato a scrivere le mie prime cose, le mie prime canzoni. Dopo il liceo mi sono trasferita a Milano per intraprendere un po' più professionalmente questo percorso e ho fatto l'università e un'accademia di musica. E negli ultimi anni devo dire che mi dedico pienamente a fare la cantautrice, quindi scrivere nuove canzoni, dedicarmi alla musica è proprio il mio obiettivo di vita. È sicuramente difficile capire come muoversi in un campo così vasto e così affollato come quello del mercato musicale. Ci sono delle regole da seguire per muovere i primi passi? Io non parlerei di regole, forse, ma più di strategie. Sicuramente è vero che il mondo della musica ormai è affollatissimo, ma credo anche che ci siano delle possibilità. Un po' come tutti i lavori, bisogna ovviamente trovare il proprio posto. E un modo per trovarlo è dato dai social, un modo estremamente moderno, però secondo me utile, perché tutti possono usare i social, per cui se qualcuno ha qualcosa da dire, riesce a farlo in maniera autentica, bella, artistica, ha la possibilità di farlo e di essere notato. Quindi diciamo che la strada c'è, ovviamente bisogna avere anche un po' di fortuna, però nel mio piccolo posso dire che si possono avere anche delle soddisfazioni, trovare il proprio pubblico anche in dimensioni più ridotte, non necessariamente uno nella vita deve diventare Mina, questo voglio dire. Scrivere musica significa entrare in contatto con una parte di sé che vive di creatività e di sensibilità. A cosa ti ispiri quando scrivi? Un po' tutto è fonte di ispirazione per scrivere, per cui fare un viaggio, aver visto un film, ma proprio partendo dalle piccole cose, tutto è uno stimolo, soprattutto vivendo in una grande città, anche semplicemente facendo una passeggiata, ci sono tanti spunti, se si osserva bene, per parlare di qualcosa. Per cui scrivo tutto su quaderni sotto forma di pensieri che non necessariamente diventano subito delle canzoni. Magari col tempo poi mi rendo conto che quel che avevo pensato mesi prima poi esce sotto forma di una canzone e quindi tutti i pensieri diventano un po' più ordinati, diciamo. E un'altra cosa che mi piace molto fare è, per esempio, dare vita a degli oggetti inanimati, come nel caso della matrioska, alla quale ho dato una voce per parlare di sé. Tra le canzoni che ti hanno segnata, ce n'è una che hai particolarmente a cuore? Domanda difficile, ce ne sono troppe. Allora, scelgo The Rain Song dei Led Zeppelin perché tra i miei primi ascolti nella musica rock ho scoperto questo gruppo e me ne sono follemente innamorata durante la mia adolescenza e questa era una delle mie canzoni preferite. E poi, invece, spostandomi più sul cantautorato italiano, scelgo Amarsi un po' di Battisti, sicuramente uno tra i miei autori preferiti e vorrei dirle tutte sinceramente le canzoni, però forse questa è una di quelle che mi emoziona di più. Cosa si prova a essere sul palco davanti a persone che hanno voglia di meravigliarsi? Com'è stato esibirsi prima del concerto di Marchica la sera del 14 febbraio lo scorso anno al Blues House di Milano? Beh, stare su un palco è bellissimo, nel senso che si crea la condizione perfetta per potermi esprimere in tutto e per tutto. Diciamo che è un po' lì che esce la vera Mara. E poi un'altra cosa incredibile è pensare che ci siano delle persone disposte ad ascoltare la tua musica, le tue parole, per cui è anche una grande responsabilità che poi viene ripagata nell'emozione che poi si prova cantando, si genera proprio una sorta di magia e dopo un concerto ne esco sempre arricchita emotivamente. Quale messaggio ti piacerebbe trasmettere ai giovani che ti stanno ascoltando in questo momento? Non lo so, sicuramente ascoltarsi tanto. Io credo che sapere ed essere determinati su quello che si vuole fare, su dove si vuole stare e conquistare sia un grandissimo punto di partenza. Nel mio caso è stata la musica, la scelta di cambiare città, di frequentare certe persone, di incanalare tutti i miei sforzi in un determinato ambito mi ha aiutata e diciamo ogni giorno che mi sveglio so diciamo l'obiettivo a cui voglio arrivare. Per cui, per distruggere un po' questo mito di noi giovani che siamo incapaci e depressi, un consiglio potrebbe essere veramente dimostrare di avere le idee chiare. Hai da poco concluso gli studi per il diploma in canto moderno, un traguardo ma anche un punto di inizio. Quali progetti hai per il futuro? C'è qualche sogno da realizzare assolutamente, a parte il videoclip di Matrioska? Questo è un periodo felicissimo per me perché è appena uscito il singolo Matrioska che anticipa l'EP omonimo, per cui sono carichissima e i progetti futuri sono quelli attuali, nel senso che si stanno avverando. Il mio desiderio è che i miei pezzi, tutti quanti, trovino un loro posto. E credo che la cosa migliore sia appunto fare tanti concerti, tanti live che sono comunque in programma e dove mi esibirò chitarra voce, per cui non mi resta che invitarvi ai concerti. Poi, se devo pensare ad altri sogni in un futuro prossimo, ammetto che la lacrimuccia quando c'è Sanremo mi scende sempre. Anche oggi concludiamo leggendo l'estratto di un romanzo. Oggi tocca Il tempo delle lucciole di Francesca Niemi. Emma aveva disteso le braccia oltre la testa e si stiracchiava mentre l'erbetta morbida le solleticava le gambe. Gloria giocherellava con una margherita tra le dita e fissava le nuvole nel loro pigro ma continuo movimento. Fu allora che iniziò a raccontare. Quando abitavo in montagna con mamma e papà e Alberto, avevo un'amica speciale, ma non speciale quanto te, precisò sorridendole affettuosamente. Comunque le volevo bene. Si chiamava Adriana e viveva nella casa di fronte alla nostra. Non era vicinissima, perché a separarci c'era la ferrovia e un grande prato, però era l'unica casa fino al paese. I suoi genitori vendevano dolciumi all'ingrosso e lei era la più piccola di 3 sorelle, aveva più o meno la mia età. Con lei mi divertivo, il nostro passatempo preferito era prendere di nascosto il cioccolato del magazzino. E poi andavamo a mangiarlo sedute sulle staccionate dei pascoli dove nessuno ci scopriva. Vide che Emma la guardava subito. Si mise sulle difensive. Non mi guardare così, so che rubare non è una bella cosa, non si dovrebbe fare, ma la cioccolata era anche sua perché era di suo papà. E lei diceva che comunque il papà non si sarebbe arrabbiato se l'avesse scoperto, perché da quando lo prendevamo senza permesso, lei ne mangiava molto di meno a casa. Emma scoppiò in una fragorosa risata. A me non importa un fico secco se prendevi il cioccolato di nascosto, solo che non pensavo che avresti mai fatto una cosa del genere. Sei sempre tu che mi rimproveri perché sono una combina guai, e ora scopro che sei stata una radruncola. Sai che ti dico? Sapendo che sai essere anche coraggiosa, ti voglio ancora più bene di prima, e se mai mi verrà in mente di rubare un salame dalla dispensa di mia nonna, saprò a chi rivolgermi. Non la smettevano più di ridere. Non riusciva proprio a immaginarsela che si lasciava convincere a fare una cosa simile. Lei che era leale e altruista con tutti. Per Adriana era solo un gioco. Ne avrebbe potuto avere quanto ne voleva, e anche quando ne aveva voglia. Però per Gloria era stata una dolce scoperta alla quale non era più stata capace di rinunciare. Dopo la morte di suo fratello se n'era vergognata, perché temeva che Alberto, in paradiso, avesse scoperto il suo segreto e non si dava pace al pensiero dell'opinione che poteva avere di lei. Per fortuna il buon umore di Emma la contagiò a tal punto che riuscì subito a scacciare quei tristi pensieri. Non l'ho mai raccontato a nessuno, ma sentivo di potertelo dire. A volte penso ad Adriana, che tutte le mattine quando va a scuola vede la mia casa, chissà chi ci abita ora e chi ci dorme nel mio letto. Ma ora la tua casa è qui e io sono la tua Adriana. Le loro teste si toccarono leggermente e quel contatto fu più di un abbraccio. Poi all'improvviso Emma balzò in piedi. Questa non doveva essere un'avventura speciale e invece siamo qui a perdere tempo. Facciamo qualcosa! I suoi occhi si illuminarono. Quando farà buio ci saranno le lucciole, esclamò. E Gloria sgranò gli occhi. Scherzavo, non ti preoccupare. So che non possiamo aspettare che faccia notte, però sarebbe stato bello. Quello era il tempo in cui ancora c'erano le lucciole, in un mondo che sapeva ospitare la fragilità assieme a quella degli altri esseri viventi. Si guardava la natura con occhi innocenti, e quegli insetti così piccoli e misteriosi rappresentavano una meraviglia del creato, da rispettare, ma anche uno spettacolo da ammirare incantati. Le lucciole del mese di maggio, tra il grano che imbiondiva lungo i sentieri costeggiati, era accompagnato dal colore di 1000 boccioli in fioritura.